cambiata. Insomma, se lei dovesse confrontare il c'era quartiere di questo. allora con quello di oggi. E penso che meno, su certi aspetti è molto meno degradante di quell'epoca lì, se prendiamo lontano, perché poi sul rubare era un macello, non potevi più lasciare nulla. E mi ricordo addirittura gli stereo delle macchine, uno si doveva portare lo stereo dietro perché gli serviva lo stereo per farsi, era un bordello. Poi piano piano, magari forse sono cambiate le abitudini delle droghe, allora è stata cancellata, però penso che sta ritornando di nuovo, forse piano piano Signor quella. Francesco, lei insomma vive lì di fronte a XM24, no? Questo ormai è diventato il nodo, il tema del contendere. E lei ci va XM, ogni tanto ci passa o lo Sì, vede da ci fuori? vado, sì, ho visto delle cose belle, veramente, hanno fatto degli interessi culturali molto importanti. Poi Qua, quando lo addirittura venivano frequenta? anche professori addirittura da Genova per spiegarci l'economia, venivano da altre città per iniziative culturali, addirittura certe volte dalla Francia, insomma era molto, è molto attiva, a me mi dispiace una cosa così di una caserma, perché vedo che è una caserma. L'intera Bolognina, ripeto, è diventata una caserma, veramente. Da dove ti giri, giri, vedi carabinieri, poliziotti. Ecco Poi il bar di Francesco. fronte lì che c'è, di fronte all'XM, Sì. non ti dico. Lì proprio c'è. Sono già piantonati, praticamente. Poi Ecco, signor piazza Francesco, le chiediamo dell'Unità, la piazza questo. Ci dell'Unità ci sono sente? sempre. Ma Ecco, dica. le chiediamo questo. È aumentata, questo è oggettivo, la presenza delle forze dell'ordine nel quartiere. Sono anche arrivati i militari con le loro camionette, con la mimetica. La situazione è migliorata secondo lei, dal punto di vista, ad No, esempio, dello penso che spaccio? con questa cosa qui di vedere piazza di tutti questi carabinieri, che poi la caserma c'è proprio a due passi dall'XM, che è in via, dovrebbe essere in via Francesco Barbieri, c'è una caserma dei carabinieri, c'è proprio a due passi dall'XM. Che cosa ne pensa, e questa è l'ultima cosa che le chiedo, di coloro che hanno firmato la raccolta firme per chiedere più agenti e di coloro che hanno firmato per chiedere di spostare XM perché di notte c'è fracasso? Lei abita lì davanti. E certamente c'è anche questa cosa qui di xenofobia in giro che si respira e hanno firmato per quello lì, perché magari si vedono, è normale, si vedono molti stranieri, questo è anche su un certo aspetto molto positivo che sia multietnico, però molta gente la guarda un po', sai com'è, c'è la xenofobia, la respiro, la vedo. Anzi, bastano due parole. Io questo poi voglio dire su questi personaggi di destra, che in due parole ti dicono subito quelle che sono. Invece quelli di sinistra, molti si nascondono, sono dei lupi travestiti da pecore, e a me mi fanno più paura quest'ultimo rispetto ai primi, perché tutti quelli che incontro alla PAM me lo dicono, che proprio non ne possono più. Dice, tutti in Vasa da Neri, Piazza dell'Unità, e incontro un casino che mi dicono così, mica me lo dice una persona soltanto. Va bene, Soprattutto poi Francesco. ho l'abitudine di non avere astio con nessuno e parlo con tutti. Però vedo che loro, questi qui, ti dicono, ti prendono subito il passaporto di quello che sono. Sono omofobi, xenofobi, te lo dicono subito. A me mi fanno paura questi qui della sinistra, che sono lupi, ti ripeto, travestiti da pecore. Francesco, grazie mille della telefonata. Di niente. Allora, ci arriva un messaggio. Se più polizia significasse sicurezza, Piazza Verdi sarebbe Trento. Non importano i piani, niente può sostituire un organismo vitale. Lasciateci qualcosa di bello e partecipato come XM24. Questi messaggi arrivano al 348-7649-289. Invece abbiamo un'ascoltatrice che ci chiama allo 051 24 1910. Buongiorno. Buongiorno a voi. Io sono Anna, abito in via Gobbetti, Grazie di quindi aver vedo gli chiamato, Anna. XM. Prego, Allora, prego, su prego, ci mancherebbe. XM24, lei che dice? Allora, su XM24 dico che ha degli aspetti buoni e degli aspetti che probabilmente andrebbero forse rivisti, ok? Io abito qui di fronte e durante le nottate a oltranza di XM le garantisco che non è un piacere. E per quanto possa Quanto magari dura prendere quel rumore? Proviamo a quel raccontarlo. rumore, lo dura fino alla mattina. Io quando esco per andare a lavorare, il quando ci sono queste feste? Quando ci sono queste feste e non sono piacevoli, perché ovviamente è un centro abitato, quindi ognuno ha diciamo la libertà di poter dormire, di far festa eccetera, ma ci dobbiamo capire reciprocamente, ok? Questo, lei ha mai parlato con loro? Ogni tanto ci va? Assolutamente sì, assolutamente. E cosa sì, le dicono? Rispetto a questa cosa qua non dicono niente, non ho avuto modo di parlare direttamente con loro. Credo che sia una cosa che si possa capire anche senza bisogno che qualcuno te lo venga a dire, che comunque sei in un centro abitato e quindi ognuno ha le sue esigenze, da chi è in casa il malato che ti sta morendo, ci siamo intesi, a chi magari deve andare a lavorare, ok? E questo è un primo punto. Rispetto a tutto il resto, su come si sta in Bolognina, viene da sé, insomma, c'è bisogno sicuramente di sistemare alcune cose e non credo che sia la caserma dei carabinieri che possa sistemare tutto. C'è un problema di spaccio che fa paura, chi dice che lo spaccio non c'è venga a vedere che cosa succede di giorno, di pomeriggio, di sera sotto queste strade. A me gli spacciatori, indipendentemente dalla che siano italiani, tibetani o di cose, non mi piacciono. Ci sono, insomma, sono sotto casa sua? Ci sono, sono sotto casa mia, sotto l'angolo via Fioravanti, ci sono. Senta, secondo lei, siccome c'è stata una raccolta firme, XM dovrebbe spostarsi quelle attività lì? Forse alcune, no, io non dico che si deve spostare XM, non vorrei essere fraintesa, direi, mi verrebbe da dire, alcune attività magari vediamo di contenerle, ecco. Cioè le feste, insomma, le feste notturne. Ok, oppure attrezzatevi in modo tale che quindi fate le vostre feste e gli altri non debbano subirle, non so come... È chiaro, la cosa che le chiedo, insomma, visto che lei abita in quartiere, ipotesi di scuola, al posto del centro sociale XM24 arriva una caserma dei carabinieri, secondo lei quella strada migliora? Non ho capito, scusa, l'ultima frase che mi hai detto. Al posto di XM24 arriva una caserma dei carabinieri, secondo lei quella strada lì, via Fioravanti e tutte le zone limitrofe, migliorano? Magari sparisce lo spaccio? Non lo so, non ne sono così convinta, non lo so, ecco, questo non credo che sia, cioè la soluzione non sta né o così o cos'ha, capito? Non credo, sappiamo tutti che il problema non è un problema di ordine, solo di ordine pubblico, è un problema molto più complesso e non si risolve in una o sì o no, ok? Ci siamo, non è la caserma dei carabinieri che risolve. I problemi sociali che abbiamo e sono tanti, non è per non risponderti, ma no, certo, la risposta c'è tutta. Non c'è una risposta precisa, o è così o è colà. Vanno affrontate in un modo un po' più, diciamo, un po' più approfondito, vogliamo dire così, senza posizioni prese a prescindere. Perfetto, grazie mille di aver chiamato, grazie per la... Adesso mi si è aggiornato il browser. L'idea di veder finire questa esperienza non è degna di una città come Bologna. Merole in questi anni ci ha abituato a politiche di destra, ma questa idea è qualcosa che va oltre. E sostituire le arti guarda la sicurezza, però insomma ci stanno arrivando tanti messaggi. Se volete abbiamo ancora qualche minuto per parlarne in diretta. 051 24 19 10, il numero della diretta per parlare appunto di XM24. E della Bolognina. Ci scrive un altro ascoltatore: ieri a XM c'era un interessantissimo dibattito con due docenti di giurisprudenza. A XM si fa cultura, che arma fondamentale, l'unica vera arma che vogliono strappare a tutta la Bologna con questo ennesimo sgombero. Altro che carabinieri, le unità che, dunque adesso non si capisce bene questo messaggio, le armi di cui c'è bisogno sono cultura, incontri, solidarietà. Ecco, questo le uniche armi di cui c'è bisogno. Questo è un messaggio che ci arriva da questo ascoltatore che ringraziamo. Allora, alle 11.30, in realtà inizia sempre un po' dopo, parte il question time in consiglio comunale. Oggi ci sono due domande di attualità che riguardano proprio XM24. A rispondere sarà l'assessore alla cultura Bruna Gambarelli, o dovrebbe essere lei, insomma, vedremo se risponderà. E magari se ne saprà qualcosa di più anche dal punto di vista delle ragioni che ci sono dietro questa scelta. Insomma, per il momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte del Comune di Bologna su questa ipotesi allo studio di mettere una caserma dei carabinieri al posto dell'XM24 in via Fioravanti, ma non arriveranno però delle smentite, quindi insomma è un'idea che c'è, che esiste, che è concreta. Scrive B: ma se la città è già piena di presidi di polizia e comunque si spaccia ovunque senza remore, si può sapere a cosa serve la polizia? Viva XM24! Ve lo ricordo, questa idea di fare qualcosa al posto di XM c'era, anche perché nella lettera che il comune ha inviato a XM con la data di sfratto fine giugno si parlava proprio di un progetto di utilità o di interesse pubblico, ma quando l'abbiamo chiesto al sindaco Merola, insomma, il sindaco ha scelto proprio 2 giorni fa di mantenere stretto riservo su qual era il progetto. Insomma, l'abbiamo scoperto questa mattina leggendo il Corriere di Bologna. Vi facciamo sentire quello che diceva 2 giorni fa il sindaco Merola. Riqualificazione in XM24, questo è il tema epocale. Sì. No, la convenzione per l'XM24 è in scadenza e credo che non abbiamo intenzione di rinnovarla, perché lì abbiamo un progetto di interesse pubblico da attuare. Cosa? Questa era la domanda? No, prima voglio che il progetto sia approvato, poi te lo dico. Questo è il sindaco Merola. Ancora messaggi: 348-76-49-289. Sarebbe bastato vietare i party e permettere tutte le altre attività semplice, così ci scrive un'altra ascoltatrice. E poi invece quando firmarono la convenzione assicurando che lo spazio di XM sarebbe stato destinato comunque ad attività socioculturali, ve li ricordate? Politici Pinocchio, convenzione però firmata dalla scorsa giunta, insomma la scorsa giunta Merola, il Merola 1, mettiamola così, nel dicembre 2013, se non erro. Aggiungo al messaggio precedente, scrive sempre questo ascoltatore, che non si tratta di chiusura ma di trasferimento, considerando che la Bolognina vive una situazione critica che secondo me XM amplifica. Allora, forse è Domenico, eccolo qua. Allora, Domenico scriveva, così facciamo capire il pensiero di Domenico: vivo a 100 metri da XM, sottoscrivo in toto il parere dell'ultima ascoltatrice che ha telefonato, e cioè quella che diceva ogni tanto lì ci sono delle feste che fanno davvero troppo baccano e bisogna limitarle. E allora Domenico dice che si potrebbe, se interpretiamo bene il suo messaggio, si potrebbe valutare l'ipotesi di spostare XM24. Ultimi minuti, poi partirà il consiglio comunale, ancora i consiglieri non sono entrati in aula, quindi ancora un po' di tempo c'è per parlare di XM e per ascoltare la musica di Radio Città del Capo. 348-76-49-289. Una caserma al posto di XM24 è l'idea del sindaco Merola. Allora, ci scrive un ascoltatore arrabbiato, evidentemente con l'amministrazione del quartiere. Ci dice: ieri sul vostro sito Ara, e cioè Daniele Ara, il presidente del quartiere Navile, giurava di non saperne nulla. Dice: ma potete fare le cose così? E comunque già sai che non è un servizio di quartiere, Mazzanti lo sa. Allora, per il momento non arrivano, rispondiamo a questo ascoltatore e ascoltatrice, dei commenti. Grazie, il numero legale raggiunto, il video. L'assessore Priola ha comunicato che non sarà presente alla seduta odierna, alle domande di attualità 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 darà risposta scritta. Sarà data risposta scritta. L'assessore Geri ha chiesto di accorpare le domande di attualità 11 e 12. Le domande 13 e 14 e le domande 15 e 16. L'assessore Lepore ha comunicato che non sarà presente, alle domande 17 e 18 darà risposta scritta. L'assessore Riori ha comunicato che non sarà presente e alle domande 19 e 3 e 20, entrambe aventi ad oggetto livelli emergenza smog, verrà fornita unica risposta che sarà letta in aula dall'assessore Geri. Procediamo quindi. E c'è ulteriormente la comunicazione dell'assessore Rizzonervo, che è convocato in prefettura e quindi chiede di giustificare la propria assenza nel caso in cui non si riesca a liberare prima della fine question time. Procediamo dunque con le domande per l'assessore Gambarelli. Consigliere Bosco, sfratto all'XM24. Grazie Presidente. È notizia di pochi giorni fa che il Comune ha mandato comunicazione formale al comitato che gestisce la struttura denominata XM24, chiedendo la liberazione dell'immobile entro il 30 giugno 2017. Abbiamo cercato, io per primo ho chiesto un'udienza conoscitiva per intavolare una sorta di confronto per andare a ragionare su quali erano le problematiche relative alla presenza del centro sociale in Bolognina. Purtroppo ci siamo dovuti esprimere in contumacia in quanto il comitato anche in seconda istanza non ha dato particolare disponibilità a confrontarsi col comune. Mi ha particolarmente colpito il fatto che la risposta pubblica da parte dell'XM24 alla richiesta del comune è stata abbastanza lapidaria, rifiutandosi, insomma, annunciando che non intendono lasciare lo stabile e annunciando anche ripercussioni di non precisata natura. A questo punto vorrei sapere se il Comune, a fronte dell'arroganza e della prepotenza che il Comitato sta esercitando nei confronti della città, abbia già pensato se evitare o se, diciamo, precludere al medesimo Comitato la concessione di ulteriori spazi. Io direi che il Comune di Bologna non può permettersi e non deve permettersi di concedere, diciamo, di dare spazio ai prepotenti, perché di prepotenza in questo caso si tratta. Uno spazio è stato concesso a titolo gratuito per diversi anni, andando a sanare una situazione che non era nata nei canoni della legalità. Ciò nonostante, con tracotanza ci si rifiuta di riconsegnare questi spazi al legittimo proprietario. Quindi invito il Comune, di cui attendo risposta in aula, invito il Comune a non dare più spazio a questi prepotenti. Grazie. Grazie consigliere Bosco, 2:20. Il consigliere Bernardini chiede di accorpare la domanda, se il consigliere Bosco concorda. Prego. Grazie Presidente, sarò molto breve visto che ho altre domande di attualità. Anch'io chiedo lumi sul percorso che l'amministrazione comunale intende intraprendere per lo spostamento del centro sociale XM24 dai locali oggi ancora occupati di via Fioravanti, e soprattutto sono curioso di capire, visto che abbiamo letto solo da notizie di stampa, quella che sarà la futura destinazione di quei locali. Grazie. Grazie consigliere, la parola all'assessore Gambarelli che ha 14 minuti. Buongiorno, grazie. Mi sentite? Allora, rispetto al quesito appena posto dal consigliere Bernardini in merito alla futura destinazione degli spazi di via Fioravanti, devo dire che la destinazione è ancora sotto lo studio, insomma, della Giunta e del Sindaco, e che non è assolutamente questa, diciamo, l'occasione nella quale noi possiamo capire quali saranno le future destinazioni di quegli spazi. Come sapete, XM24 ha stipulato una convenzione con il Comune di Bologna, grazie, 3 anni fa, per tentare, diciamo così, una relazione basata su un rapporto di convenzione, dopo che era stato deciso dall'amministrazione precedente, dalle amministrazioni precedenti, di semplicemente portare lì questa realtà senza regolarizzarla in alcun modo. Il Comune di Bologna ha fatto questo tentativo, tra l'altro avendo a che fare con un comitato e quindi con tutte le questioni relative all'autogestione di cui diciamo abbiamo provato a farci carico. Questa convenzione è scaduta nel dicembre dell'anno scorso e quindi è dovuto da parte del Comune l'invio di una lettera nella quale il Comune dice che intende rientrare in possesso di quegli spazi entro il 30 giugno del 2017. Mi si chiede cosa si fa se non se ne vanno, se annunciano ripercussioni, cosa precludere al medesimo comitato, qualsiasi altro tipo di attività. Credo che insomma, per ora il Comune sia stato molto chiaro inviando questa lettera. Quello che succederà successivamente verrà verificato. Non penso che sia questa la sede per decidere che cosa si farà negli spazi dell'XM24 né che cosa faremo nel caso in cui questi decidano di non lasciare l'edificio. Se volete potremo tornare su questo argomento nei mesi successivi, quando si saranno, diciamo così, maggiormente chiariti i fini istituzionali a cui verranno destinati quegli spazi. Grazie Assessore, la parola al Consigliere Bosco. Grazie Presidente, non posso dirmi assolutamente soddisfatto dalla risposta, anche perché non c'è stata. Io ho chiesto se il Comune, a fronte dell'atteggiamento tenuto all'XM24, ha intenzione di dare loro spazi, altri spazi. Questa era la domanda alla quale non ho dato risposta. Io, a differenza del Consigliere Bernardini, non ho chiesto cosa vogliamo fare degli spazi attualmente occupati dall'XM24. Volevo capire qual è la posizione politica, non amministrativa o tecnica, dell'amministrazione nei confronti del comitato che ha per questi anni avuto in gestione, se così lo possiamo chiamare, gli spazi denominati XM24. Poteva semplicemente dirmi che il Comune ancora non si è fatto un'idea, ma non è quello che non è la risposta che ho avuto dalla Giunta. Grazie. La parola al Consigliere Bernardini. No, io ringrazio invece l'Assessore perché dalle sue parole capisco come oggi le esternazioni del sindaco siano una fuga in avanti e non sia stato ancora concertato insieme alla Giunta quella che sarà la reale destinazione di quei locali. Oggi si parla di una caserma della polizia, si parlava tempo fa di una destinazione a scopo culturale. E ci può essere un cortocircuito comunicativo che imbarazza anche nella risposta dell'assessore su quelle che possono essere destinazioni di quei locali. Sta di fatto che oggi leggendo i giornali li troveremo, se non cambierete idea, una caserma, e quindi volevo sapere, ma la risposta, il tenore della sua risposta l'ha evidenziato, si tratta di una fuga in avanti del sindaco che sicuramente magari ha preso in contropiede un po' tutti voi. Rifarò la domanda magari tra qualche mese sperando di avere una risposta più concreta sulla reale destinazione di quei locali. Grazie.